Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Tony dormì saporitamente la prima notte nella Mengstrasse e la mattina seguente, il 22 settembre, scese fresca e tranquilla nella sala da pranzo. Sedette allo scrittoio, il cui coperchio era aperto, intrecciò le mani dietro la nuca e guardò per un poco il lastrico del cortile nero di umidità e il giardino sgocciolante e ingiallito. Poi si mise a frugare tra i biglietti da visita e le lettere che erano sullo scrittoio. Vicino al calamaio c'era il ben noto fascicolone dalla copertina a sbalzo, dal taglio dorato e dai fogli di diverse qualità. Doveva essere servito la sera prima ed era un caso strano che il babbo non l'avesse infilato come al solito dentro la cartella di cuoio e riposto nel cassetto particolare. Tony lo prese, lo sfogliò, leggiucchiò e finì con l'immergersi nella lettura. Sfogliò indietro fino all'inizio del grosso fascicolo dove era riassunta su una pagina ruvida di mano del console tutta la genealogia dei Buddenbrock fino alle nozze del console Johann Buddenbrock con Elisabeth Kröger nel 1825. Da queste nozze, era scritto, erano nati 4 figli. Seguivano in colonna i nomi di battesimo con il giorno e l'anno di nascita. Accanto a quello del primogenito era già registrato che a Pasqua del 1842 aveva fatto il suo ingresso nell'azienda paterna come apprendista. Tony fissò a lungo il proprio nome e lo spazio vuoto che lo seguiva. Poi, con uno scatto improvviso, con un certo mobile nervosismo dei lineamenti, prese la penna e più che intingerla la cacciò con forza nel calamaio e scrisse con l'indice curvo, reclinando la testa accaldata su una spalla, con la sua scrittura stentata e pendente da sinistra a destra. Si fidanzò il 22 settembre 1845 col signor Bendix Grüllich, commerciante di Amburgo. Passò dicembre e al principio dell'anno 46 si festeggiarono le nozze. La famiglia era soddisfatta della sposa. Tony era bella, disinvolta e serena, benché un pochino pallida per la curiosità e per l'ansia del viaggio imminente. Il vestibolo era ornato di fiori e a destra era stato eretto un altare. Il pastore Kölling della chiesa di Santa Maria benedisse il matrimonio e con parole energiche esortò gli sposi in modo speciale alla moderazione. Tutto si svolse regolarmente secondo le usanze. Tony disse un sì buono e ingenuo, mentre Grüllich lo fece precedere da un per schiarirsi la gola. Poi si mangiò straordinariamente bene e in abbondanza. Mentre gli ospiti col pastore nel mezzo continuavano a mangiare nella sala, il console e sua moglie accompagnarono la giovane coppia, pronta per la partenza, fin davanti alla porta di casa, nell'area di neve, bianca e nebbiosa, dove li attendeva la carrozza carica di valigie e sacche da viaggio. Tony, dopo aver espresso più volte la certezza che sarebbe ritornata presto a far visita ai suoi e che anche i suoi genitori non si sarebbero fatti aspettare a lungo ad Amburgo, montò di buon animo nella carrozza e si lasciò avvolgere accuratamente da sua madre nella grossa e calda coperta di pelo. Anche suo marito si accomodò. «Addio, babbo! Mio ottimo babbo!» E poi bisbigliò. «Sei contento di me?» Il console se la strinse al petto senza parole. La scostò da sé e le strinse le mani calorosamente. Poi tutto fu pronto. Lo sportello venne chiuso con forza, il cocchiere fece schioccare la frusta, i cavalli si mossero facendo tintinnare i vetri e la moglie del console agitò al vento il fazzoletto di batista finché la carrozza, avviatasi con fragore, scomparve nel nevischio. Il console rimase pensieroso a fianco della moglie che si stringeva con grazia nel mantelletto di pelliccia. «Così se ne va, Betsy. Sì, Jan, è la prima delle nostre creature che ci lascia. Credi che sarà felice con lui?» «Oh, Betsy, è soddisfatta di sé. E ciò è la felicità più certa che si possa raggiungere sulla terra.» E ritornarono dagli ospiti. Thomas Buddenbrook scese per la Mengstrasse sino al fiume, percorse il lungo fiume finché si trovò davanti ad una casa bassa, un piccolo negozio di fioraio dalla porta stretta e dalla vetrina modesta, dove erano esposti un paio di vasi con piante a bulbo sopra una mensola di vetro verde. Entrò mentre il campanello di latta sopra la porta si metteva a latrare come un cagnolino da guardia. Dentro, davanti al banco, stava chiacchierando con la giovane commessa una donnetta grossa e piuttosto anziana, avvolta in uno scialle turco. La chiamavano la zia Lotten. Si volse per uscire, portando sotto il braccio un vaso avvolto in carta velina, e Thomas, dopo aver salutato di nuovo, disse con voce alta alla commessa: «Mi dia per favore un paio di rose. Sì, è indifferente, la France». Poi, quando la zia Lotten ebbe chiuso la porta e fu scomparsa, soggiunse a voce bassa: «Mettile pure via, Anna. Buongiorno, piccola Anna. Vedi, oggi ho un peso sul cuore». Anna portava un grembiule bianco sopra il semplice vestito nero. Era di una bellezza meravigliosa, delicata come una gazzella. Aveva un viso dai lineamenti quasi malesi, gli zigomi un po' sporgenti, gli occhi a mandorla neri e animati da una luce morbida, la carnagione color avorio, come non la si sarebbe trovata in un raggio di molte miglia. Le sue mani dello stesso colore erano fini e bellissime per una commessa. Essa girò il banco e si portò nell'angolo del negozietto dove non si poteva essere visti dalla vetrina. Thomas la seguì e le baciò le labbra e gli occhi. «Come sei gelato, poverino», disse lei. 5 gradi, ma veramente non me ne sono accorto. Venendo qui ero tanto triste». Sedette sul banco e tenendole una mano fra le sue soggiunse: «Sai, Anna, oggi dobbiamo avere giudizio. È giunto il momento». «Oddio mio», disse lei rattristata, sollevando il grembiule con profondo accoramento. «Anna, il giorno doveva pur venire. Su, brava, non piangere. Vogliamo pure aver giudizio, no? Non c'è niente da fare. Di qui bisogna passare». «Quando?» domandò Anna singhiozzando. «Posdomani». «Oddio, perché posdomani? Ancora una settimana, almeno 5 giorni. «Non si può, cara piccola. Tutto è stabilito e fissato. Ad Amsterdam mi aspettano. Del resto, pensare potremo sempre l'uno all'altra, non ti pare? E ti scriverò. Vedrai, ti scriverò appena sarò là». Egli la baciò sulle labbra e sugli occhi. «Addio, mia piccola, cara Anna. Purtroppo dobbiamo incominciare a dirci addio. Ma domani verrai ancora?» «Sì, certamente, a quest'ora. E anche dopodomani mattina, se riuscirò a liberarmi. Ma ora voglio dirti una cosa, Anna. Io vado piuttosto lontano. Sì, è pur vero. Amsterdam è lontana e tu rimani qui. Ma non buttarti via, Anna. Hai capito? Perché fino a questo momento tu non ti sei buttata via, te lo dico io». Ella piangeva tenendosi con la mano libera il grembiule sul viso. «E tu?» «Dio lo sa come andranno le cose. Non si rimane sempre giovani. Tu sei una ragazza intelligente. Non hai mai parlato di sposare. Oh Dio, guardi che mi venga in mente di pretenderlo da te. Sono gli altri che ci portano, capisci? Se vivrò, erediterò l'azienda. Mi sposerò. Vedi che sono sincero. E anche tu, per te sarà lo stesso. Ti auguro ogni felicità, mia cara piccola Anna». Thank you. Un anno e due mesi dopo, in un giorno di nevischio del gennaio 1850, il signore e la signora Grüllich, insieme con la loro figlioletta di 3 anni, facevano la prima colazione nella sala da pranzo, rivestita di legno bruno chiaro, seduti sulle seggiole che erano costate 25 marchi l'una. Toni era in veste da camera. Le vestaglie erano la sua passione. Nulla le sembrava più signorile di un negligé elegante. E poiché a casa sua non aveva potuto abbandonarsi a quella predilezione, ora da sposata si sfogava con tanto maggior piacere. Possedeva 3 di quei capi dalle pieghe morbide, la cui confezione può rivelare più gusto, raffinatezza e fantasia che un abito da ballo. Quel giorno ne portava una rossa, d'un rosso esattamente intonato alla tappezzeria delle pareti al di sopra del rivestimento di legno. I capelli forti, di un biondo cenere, stretti da un nastro di velluto rosso, le ricadevano in riccioli sulla fronte. Per quanto, come lei sapeva benissimo, la sua bellezza avesse già raggiunto il culmine, l'espressione infantile, ingenua e ardita del labbro superiore un po' prominente le era sempre rimasta. Al suono del campanello della signora Grüllich comparve Tinka alla cameriera per prendere la bambina dall'alto seggiolone e portarla di sopra a giocare. «Puoi portarla fuori a passeggio per mezz'ora?» disse Toni e rimase sola col marito. «Diventi ridicolo!» disse dopo un momento di silenzio, riprendendo un discorso interrotto. «Hai qualche motivo in contrario? Sentiamo le tue ragioni. Io non posso... Non posso assolutamente dedicarmi tutta alla bambina. A te non piacciono i bambini, Antonì. Non mi piacciono i bambini, ma mi manca il tempo. Devo dedicarmi alla casa. Mi alzo la mattina con 20 progetti da eseguire durante la giornata e mi corico la sera con 40 non eseguiti. Hai 2 ragazze e una signora così giovane. Non possiamo, nelle nostre condizioni, tenere già da ora una bambinaia apposta. Le nostre condizioni? Dio santo, sei proprio ridicolo. Siamo forse mendicanti. Siamo costretti a farci mancare il necessario. Se non mi inganno, ti ho portato 80.000 marchi di dote. Oh, lasciami stare coi tuoi 80.000 marchi. Oh, si sa, tu ne parli con disprezzo. Tu non ci tenevi, mi hai sposata per amore, d'accordo. Ma mi ami ancora? Non tieni conto dei miei desideri più che giustificati. La bambina non deve avere la bambinaia. Della carrozza che ci occorre come il pane non si discorre più. Perché pretendi che si abiti qui in campagna se le nostre condizioni non permettono di tenere la carrozza con la quale potremmo andare decorosamente in società? Perché non vedi di buon occhio le mie visite in città? Tu pretenderesti che ci seppellissimo qui una volta per sempre e che io non vedessi più anima viva? Tu mi trascuri! E tu? Tu mi rovini! Io? Ti rovino? Sicuro! Tu mi rovini con la tua inerzia, con la tua smania di spendere e farti servire. Ecco, rinfacciami ora la mia buona educazione! In casa dei miei genitori non avevo bisogno di muovere un dito. Grüllich, disse con maggior calma, tu sorridi, parli delle nostre condizioni. Forse non sono al corrente della situazione. Hai fatto cattivi affari. Hai forse... In quel momento si udì bussare, o meglio tamburellare alla porta del corridoio e si vide entrare il signor Kesselmeier. Thank you. Come amico di casa, Kesselmeyer entrò senza farsi annunciare, senza cappello e soprabito, e si fermò sulla soglia. «Ho bisogno di parlarle senza indugio, mio caro». «Oh, venga avanti, signor Kesselmeyer», disse Tony. «Si accomodi. Sono contenta che sia venuto. Stia a sentire. Lei farà da arbitro. Stavo litigando con Grüllich. Vede, Grüllich afferma che lo rovino». A questo punto Kesselmeyer la guardò, poi guardò Grüllich, poi scoppiò in una risata inaudita. «Lei lo rovina!» esclamò. «È troppo portata al lusso», affermò Grüllich seccato. Si alzarono e mentre Tony rimaneva nella sala da pranzo per sorvegliare la cameriera che sparecchiava, Grüllich attraversò il piccolo studio col suo collega d'affari. Sopra pensiero, torcendo fra le dita la punta della basetta sinistra, precedeva a capochino. Agitando le braccia, Kesselmeyer scomparve dietro di lui nel salotto perfumatori. Passarono 10 minuti. Tony era entrata un momento nel salotto e, attraversando la sala da pranzo, andò poi lentamente nel soggiorno. A un tratto stette in ascolto. La conversazione nella stanza da fumo, che già da qualche minuto si era fatta vivace, assunse un tono così forte che si udiva ogni parola quantunque la porta fosse robusta e la tenda pesante. «Non gridi così forte! Un po' di moderazione, santo Dio!» si udiva gridare Grüllich, la cui voce debole non reggeva alla fatica ed era diventata stridula. «Su, prenda un altro sigaro!» continuò poi con cordialità disperata. «Grazie, con molto piacere», rispose il banchiere. Dopodiché seguì una pausa, durante la quale Kesselmeyer evidentemente si serviva. «Kesselmeyer, mi conceda una proroga». «Ah? Oh, no, mio caro, non parliamone». «Perché no? Perché si inquieta così? Sia ragionevole, santo cielo, ha aspettato tanto». «Non un giorno di più, caro mio. Ebbene, facciamo 8 giorni, ma non un'ora di più. Ma chi vuole che abbia ancora fiducia in un acconto, Kesselmeyer? Ma che acconto d'Egitto? Si accetta un acconto per assicurarsi provvisoriamente della solvibilità di qualcuno. Forse che io ho bisogno di fare esperimenti in questo campo? Oh, so fin troppo bene quanto lei è solvibile. L'idea dell'acconto, molto, molto divertente!» «Abbassi la voce, Kesselmeyer, e non rida continuamente così. La mia situazione è tanto seria, sì, confesso, è seria, ma ho moltissimi affari in corso. Può darsi che si trovi una soluzione buona. Stia a sentire, mi ascolti. Mi conceda la proroga e io le sottoscrivo il 20%. Oh, chiacchiere, chiacchiere! Roba da ridere, mio caro, roba da ridere!» «Kesselmeyer, non mi abbandoni in questo momento. Lei mi è amico, ha mangiato alla mia tavola. E lei alla mia, no?» «Sì, sì, ma non mi neghi ora il suo credito». «Credito? Addirittura ancora il credito? Ma dove ha il cervello? Un nuovo prestito? Lei è un bell'imbusto, sì, anche abile e attivo, ma sempre a favore degli altri. Lei è un uomo senza scrupoli, eppure non ne ha mai tratto un vantaggio. Ha commesso bricconate, ha arraffato capitali, ha buttato a mare tutta la sua onestà senza averne il minimo utile. Ha una coscienza da macellaio, eppure non è altro che un disgraziato, un minchione, un povero sciocco. Ma perché ha tanta paura di rivolgersi finalmente a quello che sappiamo? Forse perché non ci si troverebbe a suo agio, perché 4 anni fa non tutto era liscio, perché non tutto si è svolto in modo pulito. Teme forse che certe coserelle...» «Oh, va bene, Kesselmeyer, scriverò. Ma se lui rifiuta, se mi pianta in asso, allora facciamo un piccolo fallimento. Un fallimento molto divertente, mio caro». «Kesselmeyer, lei ha mangiato alla mia mensa». «Oh, lasci stare la mensa. Fra 8 giorni verrò a prendere la risposta». In città preferisco andare a piedi. Un po' di moto mi farà molto bene. Buongiorno, caro. E tante buone cose. E Kesselmeyer si alzò per uscire. Anzi, uscì addirittura. Quando Grillich entrò nello studiolo, Tony era là, con l'annaffiatoio di ottone in mano, e lo guardò negli occhi. «Che fai, costì? Perché mi guardi così?» disse lui mostrando i denti, facendo gesti vaghi nell'aria e oscillando col busto. La sua faccia rosea non possedeva la capacità di impallidire. Era chiazzata di rosso, come quella di un malato di scarlattina. Elsa Agalbato ha letto I Buddenbrock di Thomas Mann, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.